Bene, buonasera a voi che ci siete, in modo speciale buonasera a Carola Benedetta e Luciana Ciglientto nell'ordine per essere venuti stasera qui ad Asti per un pubblico qualificato, ecco, non numeroso ma certamente qualificato in questo che nell'intendimento degli organizzatori di cui due siamo presenti, era una seconda puntata all'interno di quello che chiamiamo un po' il tempo del creato, c'è un tempo di riflessione che le chiese si danno da anni in Europa, tra il 1 settembre e il 4 di ottobre, festa di San Francesco, con occasioni diversificate su questo tema. Non perdo tempo adesso sulle introduzioni, se non per ricordare che le due curatrici del testo sono anche in altri casi autrici di pubblicazioni. Carola per me è anche una collega in alcuni istituti di scienze religiose, si occupa di indologia, ma le conoscenze sono anche varie nel settore. Magari qualcuno ha visto il suo nome insieme a quello di Luciana Ciglientto anche in Overland, che è una trasmissione che è anche seguita. E loro ci potranno dire magari per curiosità anche che cosa fate dietro le quinte di Overland, che è una trasmissione certamente interessante. E quindi cioè io ringrazio veramente le curatrici di questo testo che si stanno guadagnando sul campo grandi esperienze attraverso soprattutto i viaggi, avendo però un background culturale importante nel settore appunto dell'indologia, soprattutto Carola, e delle lingue, Luciana. E allora lascio però subito loro la parola per introdurre la serata. Grazie, grazie dell'invito, grazie a voi di essere venuti in questo posto meraviglioso che mette una certa soggezione, fa particolarmente piacere essere qui. Il tema da Asti all'Europa mi sembra anche particolarmente calzante rispetto al libro, perché per creare questo libro, per mettere insieme i 21 contributi che lo compongono, con Luciana abbiamo viaggiato dall'Italia verso l'Europa, andando a cercare realtà che in qualche modo declinassero la loro idea di terra, così come era il nostro intento nel libro, cercando di scoprire quelle realtà un po' più, possiamo dire, avanti rispetto a certe nostre posizioni nazionali. Per esempio, siamo state a Rotterdam da un artista che ha creato il primo modello per olmi galleggianti. Sostanzialmente Rotterdam ha un vecchio porto, è una città industriale che ha subito anche una grande trasformazione, e per sensibilizzare gli abitanti rispetto al tema dell'ecologia, dell'ambiente, del rapporto dell'agroecologia, quindi del rapporto tra i cittadini e l'ambiente, il governo ha pensato di utilizzare delle vecchie boe che avrebbero dovuto essere dismesse per fare una sorta di piantumazione di 21 olmi. E quindi noi siamo andati a parlare con l'artista che ha disegnato questo progetto per capire qual era la sua idea di terra e come si era rapportato con queste piante che sono state temporaneamente sradicate dalla terra e messe in un ambiente tutt'altro che naturale per l'olmo, perché l'acqua, vabbè, impone una doppia fotosintesi clorofilliana, per cui insomma tutta una ricerca anche in un'ottica di agricoltura acquaponica o idroponica, quindi di agricoltura in acqua del futuro, perché si dice che l'acqua cresce e quindi avremo sempre meno terra e tendenzialmente sempre più acqua. Questo per dire che ecco, questo tema d'aste all'Europa ci sembra particolarmente calzante. Buonasera, benvenuti. Sì, noi abbiamo raggiunto le persone il più possibile per incontrarle, per parlare con loro in un ambiente verde, perché la terra, l'argomento richiedeva un momento di riflessione, richiedeva anche di conoscere le persone meglio, di guardarsi negli occhi. Quindi, quando abbiamo potuto, li abbiamo raggiunti sia a Ginevra, in Francia e anche in Olanda. Le uniche due persone che sono rimaste fuori da questi viaggi bellissimi in macchina in cui lavoriamo tantissimo, chiacchieriamo, ci godiamo il tempo, sono un cosmologo che vive a Boston e un agricoltore speciale, in realtà un piantatore di alberi di cui parleremo più tardi, che si chiama Jadav Payeng. E quindi intanto vive in India, in Assam, quindi nord-est dell'India. Ci piacerebbe farvi vedere adesso il promo del libro, che fa vedere qualcuno dei visi dei protagonisti, e adesso ci attrezziamo un attimo, ve lo facciamo vedere. libro è costituito da vari interventi e loro ce ne presenteranno alcuni. Io mi permetto di introdurre partendo da qualche suggestione, molto breve, ma presa da quello che sul tema della terra, più in generale dell'ambiente o del creato, è la notissima Laudato Si di Papa Francesco. La conosciamo, o comunque sappiamo che c'è questo documento. Io mi accontento di alcune piccole suggestioni che possono in qualche modo aiutarci a entrare, magari facendo anche qualche domanda, e poi loro sceglieranno a quali autori maggiormente riferirsi all'interno del testo. E poi, partendo da un punto, sicuramente voi ricucirete il filo conduttore del libro. Tra gli aspetti più suggestivi della Laudato Si c'è il fatto che per la prima volta un documento del Magistero della Chiesa cita in modo autorevole le comunità aborigene. Quando si parla degli aborigeni si parla, nella tradizione del Magistero della Chiesa, di pagani, e quando si parla di pagani si parla di persone politeiste, usando questo termine in modo anche, come dire, spesso un po' confuso, ma magari impreciso. Comunque persone che dovrebbero essere purificate nel loro modo di vivere il loro rapporto con Dio o il rapporto con la religione. E in modo, direi, sereno, maturo, il testo di Papa Francesco, all'interno di riflessioni che sono di un capitolo, il quarto, intitolato Ecologia integrale, invita a guardare all'esperienza degli aborigeni, suggerendo che quando ci si deve occupare di un lembo di terra che potrebbe diventare è una risorsa, magari tutelare, conservare, comprendere in quale modo potere in quel luogo produrre risorse per di varie ragioni, di varie specie, si dovrebbe sempre interpellare chi ci abita, quelli che lui considera un po' i custodi della terra. Allora io leggo solo poche righe. È indispensabile prestare speciale attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali. Non sono una semplice minoranza tra le altre, ma piuttosto devono diventare i principali interlocutori, soprattutto nel momento in cui si procede con grandi progetti che interessano i loro spazi. Viene spontaneo pensare all'Amazzonia, a cui sarà dedicato tra un anno un sinodo speciale che richiamerà l'attenzione del mondo intero, in modo speciale del mondo cristiano, a quella terra così preziosa. Per loro, infatti, la terra non è un bene economico, ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori. Non continuo la citazione, siamo al numero 146 della Laudato Si. La stima che traspare da queste righe per gli aborigeni, ma anche per le loro tradizioni culturali, ci dice come stia anche cambiando il metro di valutazione dell'esperienza religiosa di popoli e di culture diverse da quelle anche delle grandi religioni, che spesso, me ne segnate voi, sono ancora oggi tacciate di politeismo, o comunque, come dire, c'è una visione spesso ancora problematica, nonostante 50 anni di vita di Chiesa del Concilio Vaticano II. Una prima suggestione potrebbe essere un po' questa: come l'ascolto di popoli, culture, persone legate alla terra, anche dal punto di vista religioso, possono diventare una risorsa da condividere. Sì, questa riflessione è quanto mai in sintonia con il libro, e mentre lo scrivevamo a un certo punto ci siamo chieste come possiamo parlare di terra se non ascoltando anche la voce di persone al di fuori delle nostre convenzioni culturali. La terra è davvero qualcosa che appartiene a tutti, è qualcosa che, prima di tutte le scelte che noi facciamo, prima di decidere come stare sulla terra, quale persona diventare, lei deve mantenere, deve sostenerci, altrimenti tutte le nostre scelte vengono a mancare. E una notte, mentre stavamo lavorando alla prima stesura, ci è arrivato un sms, un messaggio da una delle ospiti già del libro che avevamo appena intervistato. Lei è una scrittrice iraniana che si chiama Nalta Jadod, la signora che avete visto nelle fotografie di prima, e lei ci disse: sarebbe bello se nel vostro racconto ci fosse anche questa esperienza. Ed era l'esperienza di un signore che viveva nell'Assam, quindi nell'India del Nord, che si chiama Jadav Payeng, ed è conosciuto, ormai conosciuto anche in Occidente, ma perché è chiamato The Forest Man of India, cioè l'uomo foresta dell'India, l'uomo delle foreste dell'India. E, però qui si sono creati tutta una serie di problemi, perché la difficoltà stava nel dialogo, in quanto essendo una persona tribale di una tribù, non parlava l'inglese, ma non parlava neanche la hindi, per cui il ponte ha dovuto essere un intermediario che viveva a Delhi e che ogni tanto si spostava per parlare con lui in Assam, per cui insomma i tempi si sono allungati. Ma la sua esperienza è certamente emblematica proprio di rispetto della terra. Dice: io, la terra è nostro padre e nostra madre. All'interno della tradizione indiana, nell'induismo, tutto nasce, tutto si sprigiona dalla terra, dalle forze celesti, dalle acque, dalle nuvole. E Jadav Payeng, nella semplicità di un credo tribale, che quindi è una porzione dell'induismo, che certamente non è proprio nel pieno dell'ortodossia, ammesso che di ortodossia nell'induismo si possa parlare, si è trovato questo ragazzino, quando aveva 13 anni, a vivere una profonda tragedia rispetto alla sua terra, perché loro come tribù, lui appartiene alla tribù dei Mishing, ed è una tribù abituata a spostarsi, quindi a ricostruire le proprie case laddove la terra lo permette. Vivono in una zona in cui che viene spesso devastata dal Brahmaputra, un fiume a carattere torrentizio che scende dall'Himalaya, e che lo scioglimento dei ghiacci e il crescere della stagione dei monsoni, quindi l'aumento delle piogge, rendono sempre più devastante rispetto all'ambiente. Quando aveva 13 anni, una di queste inondazioni ha spazzato via tutti gli alberi, e al mattino, quando lui è tornato sul greto del fiume, ha visto i serpenti secchi, morti. Morti perché, essendo stati spazzati via gli alberi, non c'era più un posto in cui questi animali potessero ripararsi dal sole. E si è messo a piangere, dice: non potevo fare nulla, oggi erano i serpenti, domani potrebbero essere i miei genitori, potremmo essere noi, i miei fratelli, la mia comunità. E si è chiesto che cosa potesse fare. Naturalmente intorno i grandi gli hanno detto: nulla, prendere quello che resta delle nostre case e spostarci in un'altra parte in cui il fiume non arriva. A questa risposta lui non è bastata. È andato a cercare altri saggi in un altro villaggio e gli hanno detto: pianta l'erba più alta del mondo, quella che cresce più in fretta. Questa erba è il bambù. Il bambù cresce quasi da solo, una volta che lo si mette anche nelle zone molto sabbiose, cresce, attacca, e lui ha cominciato a riforestare da solo quel pezzo. Poi in realtà, crescendo, è andato a fare anche dei corsi, si è iscritto poi nella forestale del governo, che peraltro non credeva assolutamente che lui avrebbe potuto cambiare le sorti di quel pezzo di terra. E se voi andate a cercarlo con Google Earth, ogni tanto lo troverete sotto forma di isola, l'isola di Majuli, ogni tanto è una penisola, ogni tanto è terraferma. Questo perché il fiume continua a ricostruire la zona di terraferma e la zona di isola, e le popolazioni richiamano con lo stesso nome i nuovi paesi che vanno costruendo. Si chiama sempre Jorat, ma in realtà questo posto si sposta. Comunque, Jadav Payeng ha iniziato a piantare, dopo le erbe alte, altre piante di tutti i tipi. Pian piano ha portato le formiche, perché ha capito che le formiche lo avrebbero aiutato nel spargere i semi, e oggi questa terra è diventata due volte Central Park. La comunità, le sue comunità sono tornate a vivere in quel terreno, a coltivare, anche perché la grande forestazione ha permesso di creare degli spazi ombrosi in cui si può fare agricoltura, mentre prima con le inondazioni veniva portato tutto via perché non c'erano più gli alberi. E questo per noi è stato un esempio concreto, intanto per tornare a quello che dice Rabì, che vedremo, conosceremo dopo, la forza di un colibrì. Il colibrì è l'uccello più piccolo del mondo, è quasi un insetto, eppure una leggenda dice che mentre c'è un incendio nella foresta e tutti gli animali scappano, solo il colibrì va verso il fiume, prende una goccia e torna verso l'incendio, la deposita e va avanti e indietro. A un certo punto gli altri animali lo guardano: ma cosa pensi, cosa vuoi fare? Vuoi mica spegnere l'incendio? Sei così piccolo. E dice: io non lo so, ma io faccio la mia parte. E certamente questo Jadav Payeng, per quanto piccolo, per quanto colibrì, per quanto giovane, ha avuto la forza e la tenacia di cambiare le cose, di restare in sintonia con la terra. A un certo punto questa sua sintonia ha creato anche dei problemi. Quando sono tornate le tigri, per esempio, la relazione tra le tigri e gli abitanti era piuttosto problematica. Le tigri non fanno agricoltura, insomma, e gli abitanti dovevano ritrovare un linguaggio comune, ritrovare una relazione con la terra, perché la modernità arriva anche in zone come l'India, cioè oggi è difficile anche trovare un aborigeno che non abbia un contatto in alcun modo con la postmodernità nella quale noi viviamo. In India spesso le tradizioni rimangono inalterate per centinaia di anni, però convivono con uno smartphone, e quindi puoi trovare una persona che ha il cellulare in mano e che ha appena compiuto la puja, che è un rito millenario. Per cui in tutta questa difficoltà anche le comunità più remote tendono a perdere il loro legame con la terra, eppure ci sono persone che lo conservano, lo custodiscono, cambiando radicalmente il futuro di un posto. Grazie, è interessante questo fatto di la piccola esperienza di un uomo dell'India del Nord, come potrebbe dare in realtà dei suggerimenti davvero interessanti se venissero ascoltati anche su scale più vaste. Ma esistono anche delle ricerche in questo senso, certamente, ma anche studi di settore. Ma il problema di queste cose è che non sono finanziate, ovviamente, per interessi di vario genere, ma non entriamo adesso direttamente in questo campo. E un'altra suggestione che prendo dalla Laudato Si è una nota, anche questo una novità. Per la prima volta in un documento del Magistero della Santa Sede viene citato un autore sufi. I sufi sono i mistici dell'esperienza della religione musulmana, anche se i sufi sono considerati dai musulmani in parte sono considerati eretici, o comunque ci sono visioni un po' ambigue, perché sono mistici, sono figure anche quindi con una diversa libertà anche nell'esperienza spirituale. Ma alcuni di voi hanno sentito nominare Rumi o altre figure di questo orizzonte. Nel Magistero della Chiesa a volte si vanno a cercare, come per Amoris Laetitia, per fare una piccola parentesi, che tratta di un tema vastissimo come quello dell'amore umano e dell'amore tra l'uomo e la donna. Tutti vanno a cercare la nota, un pezzettino di una nota per capire se si può dare la comunione ai divorziati e risposati, che non è l'oggetto del libro, no? Ma in una nota c'è una piccola apertura. Ecco allora che di tutto il testo si conosce magari solo una nota. Cioè, anche le note sono importanti nel Magistero della Chiesa. Ora, per la prima volta viene citato un mistico sufi. È una piccola cosa, ma è un segno anche questo del rispetto per esperienze spirituali di altre religioni. Allora, ecco, nella nota 16, che corrisponde al numero 232 di questo documento, si dice così: un maestro spirituale, Ali al-Kawwas, a partire dalla sua esperienza sottolineava la necessità di non separare troppo le creature del mondo dall'esperienza di Dio nella interiorità, e diceva, e qui parte la citazione: non occorre criticare a priori coloro che cercano l'estasi nella mistica o nella poesia. C'è un segreto sottile in ognuno dei movimenti e dei suoni di questo mondo. Gli iniziati arrivano a captare quello che dicono il vento che soffia, gli alberi che si flettono, l'acqua che scorre, le mosche che ronzano, le porte che cigolano, il canto degli uccelli, il suono delle corde o dei flauti, il sospiro dei malati, il gemito degli afflitti. Non commento, ma lascio la parola a voi. Questo riferimento al sufismo mi fa venire in mente la figura di Pierre Rabhi, che è fondamentale per questo libro e anche per me e per Carola negli ultimi 6 anni, perché è stato un incontro molto fortunato che è avvenuto nel 2012, quando noi eravamo organizzatrici di un festival che voleva invitare persone che noi consideravamo viaggiatori straordinari, persone che fossero un po' degli apripista nel loro campo. Allora ci fu consigliato di andare a incontrare Pierre Rabhi, considerato in Francia il Gandhi della terra, uno dei primi promotori dell'agroecologia, che è diventato suo malgrado molto famoso in Francia e promotore di un ritorno a un'armonia fra l'uomo e la terra che abita. Quindi andammo a incontrarlo in Ardèche e ci trovammo di fronte a una platea di oltre 500 persone in una specie di tendone da circo e altre 500 fuori in assoluto silenzio. Quindi insomma un po' di suggestione ci venne al momento, insomma, perché ci rendevamo conto che eravamo di fronte a qualcosa di veramente grosso, pregnante, e lui, con la saggezza degli africani, di quando ti raccontano qualcosa che ha un peso millenario, parlava a queste persone direttamente al loro cuore. Quando siamo andati a incontrarlo e poi abbiamo avuto la fortuna di invitarlo al nostro festival, lui quell'anno non poteva venire e quindi ci chiese di tornare per fare una piccola intervista, un'intervista che durò oltre 3 ore, che è diventato un documentario di cui vorremmo farvi vedere il promo, anche per capire la persona di cui stiamo parlando. Già dalla voce, dal viso, dall'aspetto si capisce un po' quale sia la sua interiorità. E lui ci raccontò anche la sua storia. Pierre Rabhi nasce in una oasi algerina da una famiglia sufi, e in questa famiglia suo padre, che era un fabbro, ma anche, lui dice, un musicista e un poeta, perché l'educazione, ci spiegò Rabhi, per la loro comunità era un'educazione globale che includeva sia la parte religiosa, mistica, spirituale, pratica, culturale, artistica. Aveva insegnato a questo bambino l'armonia di una comunità che viveva di quello che dava l'oasi. Quando poi i francesi trovarono una miniera di carbone e cominciarono a sfruttare il territorio, tutti gli abitanti dell'oasi furono risucchiati in questo gorgo, per cui dovettero abbandonare i loro ritmi, la loro armonia e anche il farsi bastare quello che avevano. E lui racconta con una punta di dolore vedere suo padre tornare a casa sporco, dalla testa ai piedi, con l'aria mesta. Quindi suo padre, quando Rabhi fu orfano di madre, decise di affidarlo a una coppia di francesi. E quindi Rabhi si trovò a passare da una cultura sufi a una cultura cristiana di colpo. Tutto quello che aveva imparato era sbagliato e tutto quello che stava apprendendo in lui faceva comunque stridore, perché non riusciva ad avere gli strumenti per affrontare questa doppia cultura. Adesso lui ha trovato un suo equilibrio, comunque è diventato cristiano e ha portato avanti poi nella sua vita una serie di scelte radicali che l'hanno portato ad andare a vivere prima in Francia per cercare di, dice, guadagnarmi il da vivere facendo l'operaio specializzato. Poi si è accorto che la sua vita non poteva essere, queste sono le sue parole, barattata per un salario. E sicuramente tutta quella natura e quell'armonia che aveva preso nell'oasi continuava a bussargli dentro, tant'è che a un certo punto lui e la sua compagna sono andati a vivere, poi quella che è diventata sua moglie, in Ardèche, in una zona desolata che nessuno avrebbe mai venduto a una coppia di giovani francesi che volessero mettere su famiglia. Infatti dovette faticare un bel po' per farsela dare dal governo francese, che cercava di promuovere la ripopolazione di aree un po' abbandonate dal punto di vista agricolo. E insomma lì partì la sua esperienza. Quello che insegna Rabhi nella sua compostezza è che ciascuno può fare davvero la sua parte, ma in base alle proprie capacità, alle proprie attitudini. Non c'è alcun approccio esclusivo ed è tutto molto, sì, è proprio il contrario, è tutto molto inclusivo. Permette a ciascuno di essere se stesso e di fare la sua parte. Nella tutela del mondo, ma tutto un po' ribaltato anche nel rapporto con se stessi e anche rispetto agli altri. Lui sostiene, e di fatto dice, se mai gli extraterrestri ci vedessero dall'alto, cosa direbbero degli umani? Direbbero che hanno un'intelligenza inventiva, sono in grado di produrre tecnologicamente cose incredibili, ma continuano a produrre cose che sono in grado di sterminarli del tutto e inquinano, a differenza di qualsiasi altro animale, l'ambiente che li nutre, l'aria che respirano e l'acqua che bevono. Quindi c'è una forte incoerenza, dice, bisogna rimettersi nell'intelligenza della vita, nella cadenza che la vita naturale e la terra stessa hanno e che ci insegnano da sempre a essere. E vorrei farvi vedere, se possibile, allora il promo di Rabhi, così potete vedere la persona. J'ai quitté l'Algérie fin des années 50 pour aller à Paris. Et à Paris, j'ai donc travaillé dans une entreprise pour essayer de gagner ma vie. Et dans ce milieu-là, je me suis rendu compte aussi que j'ai senti, moi, que j'allais être enfermé toute ma vie dans un système dans lequel je ne vais pas avoir le loisir ou l'espace de moi, de ma propre existence. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Michel, donc qui est ma compagne, et nous avons décidé de nous marier et puis de quitter la ville pour venir à la campagne. Donc pendant un certain temps, comme je ne connaissais rien à l'agriculture, je ne connaissais pas l'agriculture, donc il a fallu que j'apprenne l'agriculture. Je suis allé dans une école élémentaire pour apprendre l'agriculture et ensuite je suis devenu ouvrier agricole. J'ai travaillé dans différents lieux et c'est en observant l'agriculture moderne que je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, que la terre était extrêmement malmenée par des grosses machines et qu'on n'avait plus affaire à une agriculture paysanne, mais une agriculture industrielle. Et avec toutes les pollutions, les dégradations qu'implique cette agriculture-là. Et là, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu faire d'agriculture de cette sorte. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait cultiver la terre sans être obligé de la détruire. Et j'ai découvert donc la biodynamie, j'ai découvert l'agriculture biologique, j'ai découvert tout ce qui pouvait, toutes les techniques qui étaient capables finalement de nous permettre de cultiver la terre en prenant soin, en se nourrissant en quantité et en qualité, parce que l'alimentation humaine, évidemment, s'est transformée par le fait que l'usage massif de produits chimiques fait de l'alimentation une alimentation dangereuse pour la santé. Donc moi, je n'ai pas voulu rentrer dans cette voie et j'ai choisi donc l'agriculture biologique. Humus, humanité, humilité, humidité, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un symbole fantastique du rebondissement de la vie. Avec les déchets, qui sont les rebuts, qui sont jetés par terre, par les feuilles, etc. J'en reprends tout ça, je le mets dans une fermentation et je produis de l'humus. Et dans cet humus, je l'amène au laboratoire, ils vont me dire « Ah, il y a des bactéries, il y a des sels minéraux, il y a des... » etc. concentrés là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'élément de la vie. La vie, une fois qu'elle a fini le processus, redonne de la vie. Et moi, si je rentre dans ce processus, je vais prendre ces déchets, je vais les transformer et je vais les mettre dans la terre et je remets la vie dans la terre. C'est pas beau, c'est magnifique. Bon, voilà. Et c'est ça. Si on a compris tout ça, après, il faut évidemment l'écologie de l'être lui-même, l'écologie de la relation, l'écologie de toutes ces écologies-là qui sont indispensables aussi pour que on retrouve l'harmonie initiale. Et on a l'impression que dans cette harmonie initiale, le seul qui joue une fausse note, c'est l'être humain. Le soleil se lève, se couche, la lune, les cycles célestes, les étoiles, la terre qui tourne, les saisons, les plantes, les fleurs, les animaux, tout ça c'est entièrement symphonique. Et il y a juste l'être humain qui lui joue en discordance avec cela. Et c'est comment retrouver finalement la concordance avec la symphonie du monde. Pour moi, c'est ça l'écologie. C'est pas seulement défendre, bien sûr, faut le faire, défendre la faune, la flore. C'est aussi au plus profond de nous-mêmes retrouver, en quelque sorte, cette harmonie que la vie a établie et dans laquelle il fait bon vivre. Quoi. Ça veut dire, il y a un bonheur profond, profond à être dans cette symphonie. Solo per concludere, Pierre Rabhi dice una cosa che si ricollega all'enciclica, dice la creazione in quanto atto divino deve essere preservata da tutti i credenti dovrebbero essere i primi ecologisti in maniera assolutamente spontanea e naturale. Certo, in questo posso dire che Le chiese in questi ultimi anni si sono mosse, ed è stato anche uno dei motori dell'ecumenismo recente, un impegno comune per la cosiddetta salvaguardia o cura del creato, e quindi finalmente, anche se in modo tardivo, questa presa di coscienza, di responsabilità, è, diciamo che è entrata nel magistero. È sempre una parola che sembra un po' astratta, ma il magistero vuol dire poi un insegnamento anche quotidiano nelle chiese, e credo che una ricaduta adesso ci sia, soprattutto dopo la Laudato Si. Nell'introduzione di questo testo, la terra non è mai sporca, e poi ci diranno anche meglio da dove arriva il titolo, sarà uno dei punti più importanti della presentazione, però parlando proprio di questo autore dell'intervista, che sicuramente ci ha affascinati anche per il suo modo di porsi così, così profondo, competente a tanti livelli, ma anche quello spirituale. Citate una sua espressione, che è la cosiddetta sinfonia della terra, ma anche qualche domanda che viene da lui suscitata, l'abbiamo anche ascoltata verso la fine, mettersi di fronte a delle figure che stanno cercando di elaborare in modo anche concettuale il principio dell'ecologia, la visione dell'ecologia non soltanto come una difesa della terra, ma come anche una responsabilità del nostro essere parte della terra, per noi stessi, e quindi anche il nostro rapporto con la terra. In questo sfondo emergono due domande in questa introduzione: com'è il nostro rapporto con la terra? Come stiamo abitando la terra? Sono domande che loro stesse dicono di essersi poste di fronte a figure come questa. Quindi credo che mentre continuiamo ad ascoltare queste, che sono anche testimonianze, potremmo far lavorare dentro noi queste domande: com'è il nostro rapporto con la terra? Come stiamo abitando la terra? E questo ha ricadute sull'impegno, sulla responsabilità, ma anche sulla nostra identità profonda. Uno dei passaggi coraggiosi della Laudato Si, per esempio, ci fa ricordare che l'uomo è parte della creazione, che è un dato scontato dalle prime pagine della Bibbia, ma a volte l'uomo si è sentito superiore alla creazione anche per una scorretta esegesi biblica del passo dove si dice che la terra viene data in custodia all'uomo e quindi dovrà dare nome alle creature, quasi come se fosse il proprietario. Invece è il custode del creato, ma lui stesso è parte del creato, e quindi è necessario, dice anche Papa Francesco, rivedere anche l'esegesi di questi primi importanti capitoli della Sacra Scrittura e sentirci noi stessi parte del creato, e sentire come noi stessi apparteniamo a processi biologici, a processi della terra, come quello che diceva ancora adesso quest'autore, come la vita che muore e rinasce. Noi lo vediamo anche in una prospettiva addirittura di eternità. E termino ricordando quello che scrive anche San Paolo: noi non abbiamo una visione della reincarnazione, no? E non è questo che sto dicendo, ma abbiamo una visione che ci dice San Paolo, che mentre questo nostro stesso corpo ritorna alla terra si costruisce un corpo spirituale nel cielo. Un passaggio bellissimo, certamente misterioso, ma su quale riflettiamo poco, perché quando capita spesso che quando nella scrittura troviamo dei passi che sono profondi e anche indicanti un'esperienza mistica, spesso li lasciamo da parte perché sono un po' difficili, oppure diciamo no, ma questi sono testi allegorici e quindi non lasciamoli stare lì. Invece questo testo di San Paolo, per esempio, lo trovo tra i più affascinanti. Quindi mentre il nostro corpo torna alla terra si costruisce un corpo spirituale. Cosa vorrà dire? Beh, è una delle domande che ci possiamo in qualche modo portare dietro. Mi verrebbe da leggere un pezzetto di uno degli autori, si chiama Jean-Claude Carrière ed è un premio Oscar, adesso era alla Mostra del Cinema di Venezia perché ha scritto la sceneggiatura del nuovo film su Van Gogh. E quando siamo andati a intervistarlo gli abbiamo detto, ma vorremmo proprio parlare con te della terra, del tuo rapporto, di come stai in rapporto con la terra. E lui ha risposto, si è seduto come un uomo di cinema, prima ha sistemato, perché noi li riprendevamo con la telecamera e di solito eravamo noi a dare delle indicazioni, naturalmente nel caso di carriere è stato lui a dirci, io mi metto qui perché ho la luce che arriva da là, voi vi mettete qua, no, un po' più a destra, ha sistemato tutta la scena e noi naturalmente umilmente zitte a eseguire. E poi ha detto questo, la terra è l'elemento da cui sono venuto e a cui tornerò. Tutti gli uomini, tutte le donne del mondo hanno un rapporto particolare con il luogo nel quale sono nati. Il mio è con la terra di un piccolo paese, nella Francia del Sud. È lei che mi ha dato la vita ed è lei che mi aspetta. E presto, senza dubbio, a lei tornerò. È un legame molto misterioso che, come evoca la storia di Krishna, va continuamente curato. Quando siamo arroganti e ci poniamo verso di lei come esseri superiori, quando ci comportiamo da padroni intrattabili e tirannici, allora la terra rischia di arrabbiarsi. Guai a trascurarla. E per questo mi prendo così cura della mia. Prima di andare a dormire vado in giardino per respirare un po' d'aria fresca e la carezzo. La amo, le dico parole tenere. Noi due chiacchieriamo tutte le sere. Chiedo se ha passato una buona giornata e lei mi risponde «Il tempo era un po' freddo oggi». Oppure «Manca un po' d'acqua quest'anno». E io la tranquillizzo. «Hai ragione, cercherò di trovare una soluzione». Il nostro è un dialogo permanente. Se mai dovessi, tra gli elementi, sceglierei senz'altro lei. Sì, credo di essere profondamente un uomo della terra. Tu prima citavi il titolo. Il titolo ci riporta ancora in India, in realtà, anche questa storia di Carrier, perché poi a un certo punto Carrier racconta la storia del Mahabharata, ne fa una breve sintesi. Il Mahabharata è un poema epico indiano dove c'è la terra sovraffollata, la terra come divinità che a un certo punto chiede di essere alleviata perché gli esseri umani sono troppi, sono diventati troppo arroganti, la maltrattano, la vessano, non le danno alcun rispetto, la puntellano continuamente con la loro agricoltura senza sosta e la stanno in qualche modo sfinendo. Allora lei chiede di potersi scrollare un po' di esseri umani di dosso e quindi si avvierà una grande epocale battaglia che salverà soltanto la stirpe di una nuova umanità. E ricomincerà il ciclo, ma qui ci porteremo in un altro campo. Però il titolo ci riporta ancora una volta in India, perché con Luciana, quando abbiamo realizzato il documentario su PRB, lo abbiamo iniziato a presentare in tantissime conferenze, dalle università, dai ragazzi, alle scuole, ai festival, e a un certo punto ci hanno chiamate le monache indù di Altare, della comunità monastica che è sopra Altare. Loro fanno riferimento all'Unione Induista Italiana e avevano organizzato proprio una giornata sul tema spirito ed ecologia, quindi creazione, in questo caso creazione hindu, e tutela dell'ambiente per i loro devoti, per i loro fedeli, ma in realtà era una tavola rotonda più o meno simile a questa. E a un certo punto prese la parola la monaca che si occupa del Roseto. Occorre precisare che il Roseto ha una valenza spirituale particolare nella religione hindu, perché le rose sono offerte nella puja, quindi sono una raccolta sacra che viene fatta, e fare dono di una rosa significa donare ciò che c'è di più prezioso, il profumo. Addirittura le monache non assorbiscono il profumo dei fiori per lasciarlo interamente intatto, per consegnarlo e farne dono alla divinità. E comunque questa monaca disse, esordì proprio così, la terra non è mai sporca, sono gli esseri umani che la sporcano con i pensieri e quindi con le loro azioni. E quando abbiamo sentito questa frase, noi eravamo già al quarto anno di proiezione e l'incontro con Rabì aveva cambiato molto e lentamente la nostra vita. Ci rendevamo conto che eravamo sempre più nella natura, avevamo ritrovato molto del nostro rapporto con la terra che era andato perso dall'infanzia, che si era perduto nella maturità, e questa frase è rimasta come un filo rosso. Non avevamo idea di che cosa avremmo fatto, non sapevamo che ne avremmo fatto un libro, ma soprattutto non sapevamo che tipo di libro sarebbe venuto fuori, però sapevamo che questa cosa si sarebbe intitolata La terra non è mai sporca, perché in effetti sono poi sempre di più le mamme che ci dicono non ti sporcare, quante volte ci siamo sentiti dire si gioca però non ti sporcare, no? Come se tutti i nostri problemi fossero in effetti nel macchiarci i pantaloni, e oggi io che li ho bianchi capisco tristemente che cosa vuol dire. Però questa frase ci ha colpito moltissimo, e di fianco a noi nella tavola rotonda, dopo la monaca, prese la parola Paolo Marin, che è un astigiano che vive qui vicino a Moncalvo, credo, insomma in quella zona lì, e lui insegna agricoltura biologica nelle carceri di massima sicurezza di Asti di Alessandria e portava alla tavola rotonda dei dati concreti di quanto la terra curi chi la cura. I dati statistici dicono che generalmente in Italia, così come in Europa, chi esce dalle carceri ha l'80%, a volte anche di più, l'83-85% di possibilità di tornare a compiere una recidiva nell'arco di pochissimi mesi, perché il carcere di fatto è un luogo dove si viene temporaneamente parcheggiati e poi riportati peggio di come si è entrati alla normalità, senza spesso aver costruito, lavorato sulla formazione di questa persona, mentre quei carcerati che hanno la fortuna di poter entrare e di far parte dei percorsi trattamentali agricoli, che sono percorsi formativi di 600 ore, quindi sono molto lunghi, hanno una ricaduta che oscilla tra il 20 e il 23%, quindi si abbattono drasticamente i costi sociali naturalmente di questo problema, che è il problema delle carceri, il sovraffollamento, i benefici per la comunità. E tutta questa, i ragazzi per esempio quasi smettono di prendere farmaci, psicofarmaci, farmaci per dormire, farmaci per autosedarsi, solo con il lavoro della terra, e scoprendo che anche loro che considerano se stessi e sono considerati come un nulla della società, quando non un nulla malato, attaccato, sono in grado di fare qualche cosa di buono, cioè sanno prendersi cura di una pianta, sanno farla crescere, da loro dipende, perfino da loro dipende la vita di quella pianta, di quel pomodoro, di quel frutto. E oltretutto, spiegava Paolo Marin, hanno anche costituito una università del germoplasma, cioè una sorta di banca, una banca più che un'università, dove custodiscono le vecchie piante della zona del Monferrato, della zona della Langa, la zona tra l'altro che ha avuto la Bormida e quindi tutto un grosso problema anche di inquinamenti, con l'Acna, con tutta questa zona deturpata. E oggi molte università vengono in carcere a prendere questo germoplasma per recuperare delle vecchie sementi, delle vecchie specie, soprattutto quelle piante magari meno belle, quelle qualità di melo, di pero meno belle, che quindi non sono passate, diciamo, come piante di vendita, ma che hanno invece conservato e contengono resistenza, adattamento, capacità di sopravvivere anche ai cambiamenti del gusto e cambiamenti del clima. E quando abbiamo sentito questo titolo, questa frase e l'intervento di Paolo, abbiamo capito che il nostro libro sarebbe cominciato lì, cioè avrebbe dovuto contenere la storia di Paolo Marin, che poi è entrato nel libro, e avrebbe dovuto intitolarsi La terra non è mai sporca. E quando abbiamo proposto il progetto editoriale all'editore, ci disse no, noi vi prendiamo, però sul titolo non se ne parla proprio, perché tutte le persone di marketing della casa editrice hanno detto che non si comincia mai un titolo con una negazione, perché non è facile, non arriva facilmente. E quindi noi ci eravamo messi l'animo in pace e abbiamo detto vabbè, pazienza, troveranno un altro titolo e terremo la frase nel testo. Poi quando è arrivata la bozza della copertina, in realtà il titolo era lì che troneggiava, perché nonostante le riunioni che sono state lunghe, elaborate con geni del marketing vari, nessun titolo poteva rendere questa chiarezza, no? Che la terra in realtà non è mai sporca. La terra non è mai sporca, questo viene fuori dai racconti di tutti e 21 i contributi, che sono veramente i più vari, perché c'è un cosmologo quantistico che abbiamo citato prima, che è uno dei teorizzatori del multiverse, cioè dell'esistenza di più universi, quindi più Big Bang hanno generato più universi, quindi esistono più terre. A noi interessava capire quale potesse essere il suo punto di vista, visto che noi ci riteniamo unici, immaginare cosa può pensare un cosmologo che immagina invece che di terra ce ne siano più di una. Ma lui dice, nonostante tutto, questo è l'unico pianeta che noi possiamo abitare, e quelli che ci sembrano raggiungibili non lo sono, se non nell'arco di più vite che noi non possiamo ancora, insomma, avere. Pertanto è il nostro ambiente, dobbiamo rispettarlo. Ci ha molto colpito anche l'esperienza, per esempio, di un funambolo che si definisce funambolo zen, perché ha praticato per molti anni la meditazione zen. È un po' il suo approccio alla terra dall'alto, è un recordman che fa traversati sia in grande altezza che in grande lunghezza, si chiama Andrea Loreni, e ci ha un po' raccontato come di fatto la vista dall'alto ti permetta di capire che per andare verso le altezze devi avere delle buone radici, e quindi devi poter spingere sul tuo corpo, sul peso che tu hai, sul filo stesso, altrimenti il vento ti porta via. e quindi la terra, le basi, le origini sono fondamentali. E poi parla anche di una metafora molto interessante che molti citano, che è la metafora degli alberi. Questi alberi sono tornati prepotentemente in tutto il libro. E lui dice: gli alberi sono fortunati, sono seri, perché un albero non può che essere quello che è, non c'è un olmo che può diventare un pino. Invece gli esseri umani fanno tantissimi sforzi per essere quello che non sono, per adattarsi alla società, all'educazione, alla cultura, e poi faticano per poi tornare magari dopo tanti anni e tanti sforzi a quello che sono. E quindi il suo augurio è quello di essere come un albero, serio e corrispondente alla sua natura. Mi aggancio, anche se in realtà l'aggancio è un po' forzato, però quando abbiamo stilato questa idea, no, di chi volevamo che raccontasse la propria idea di terra, a un certo punto abbiamo pensato terra come confini, come capacità di superare anche i confini. È lì che abbiamo fatto il nome di Peppe Tenti, che è il fondatore di Overland, perché stavamo guardando, era una notte insonne dove cominciavamo a correggere le prime bozze, e la carovana arancione di Overland era, credo, sud-est asiatico, insomma, non ho ben idea perché era molto tardi, noi abbiamo attaccato che la televisione era già, il programma era già avviato, però ci siamo dette: quanta terra ha visto quest'uomo senza mai staccare i piedi, no? Perché loro viaggiano su camion o adesso su fuoristrada, e quanti confini avrà visto, quanti confini avrà forzato in qualche modo. E ci piaceva raccontare questa anche visione della terra, no? Come si vive vedendola tutta, vedendola più volte. Quest'uomo è stato 25 volte sul Kilimangiaro, 17 volte sull'Himalaya, per cui ha visto proprio la terra rotonda quando il sole sorge e si vede, data l'altezza del Kilimangiaro, la terra inclinarsi. E poi lui ci ha dato appuntamento, vabbè, insomma, un viaggio rocambolesco, ma se no non sarebbe stato Overland, cioè se ci avesse dato appuntamento nel suo ufficio a Milano non ci sarebbe stato neanche gusto. E poi quando si è riletto, un giorno ci telefona e fa: diamine, ma sono più io di me. In questa storia mi ritrovo più che me stesso, è proprio come leggermi. E dice: ma mi siete piaciute, vorrei che veniste con me in India. Caspita, partiamo subito. Poi in realtà la RAI, questa avrebbe dovuto essere Overland 18, la RAI ha tagliato, tanto per cambiare i contributi, ha dimezzato i costi, per cui loro hanno fatto 18 nell'Islam, quindi avrebbero dovuto partire da Venezia e arrivare a Goa, per cui fare proprio tutta la strada. Ma la RAI dimezzò il costo, per cui fecero da Venezia fino al Pakistan, fermandosi al Pakistan. E quindi fecero le vie dell'Islam e India diventò India 19, cioè quest'anno. Ma la RAI mantenne il budget silurato a metà, e quindi invece di partire ci chiesero di fare degli approfondimenti da qua. Per cui la carovana si trovava in un tempio e noi dovevamo spiegare tecnicamente quale operazione venisse compiuta, quale rito veniva fatto, oppure l'India postcoloniale nel caso di Luciano, il passaggio degli inglesi. E abbiamo girato al Museo di Arte Orientale ed è stata un'esperienza comunque bellissima, perché poi quando quest'estate di notte ci siamo viste lì, ci ha fatto un certo effetto. Vorrei ancora aggiungere una cosa che riguarda un altro concetto che emerge da molti contributi, è un po' il senso di interdipendenza che c'è fra l'uomo e il pianeta, che spesso viene trascurato, ma semplicemente perché siamo presi da mille cose concrete. E c'è un esempio che fa Vandana Shiva nel documentario che mi è molto semplice ricordare anche quando io mi perdo e mi perdo nelle cose da fare, ed è quello che dice: se ti fa male la mano, farei qualcosa perché la mano è tua, fare qualcosa per curarla e per non sentire più il dolore. Allo stesso modo, se è come è, noi siamo parte della terra, dobbiamo fare qualcosa perché sia nella migliore salute possibile. E questa è un po' una chiave, secondo me, rasserenante, che rimette l'uomo nel creato e ci permette di pensarci, anche di ridimensionare un po' quello che è il nostro pensiero di dominare gli eventi e le cose, tant'è che la terra, dicono gli scienziati, senza gli esseri umani continuerà il suo cammino, insomma, quindi non siamo così fondamentali. Brutto da dire, non dovevo. No, fa riflettere, ma in realtà è così. Dicevo all'inizio che il cosiddetto tempo del creato, che è un'espressione coniata alcuni decenni fa in Germania, ma ha avuto un certo successo nelle chiese europee, tant'è che molte realtà sia di singole chiese sia di organismi ecumenici organizzano degli eventi durante questo periodo, fino al 4, il primo settembre, perché per gli ortodossi è l'inizio dell'anno liturgico, e da ormai da una trentina di anni i patriarchi, prima Dimitrios e poi l'attuale Bartolomeo, hanno fatto la scelta di scrivere sempre una lettera pastorale sul tema del creato. Quindi 1 settembre giornata del creato, 4 ottobre perché è la festa di San Francesco per i cattolici, che è un santo che va molto oltre i confini della Chiesa cattolica perché è stimato in modo universale. E allora proprio riferimento così a San Francesco, innanzitutto il titolo della Laudato Si, anche questa è una cosa originale perché i titoli delle encicliche sono sempre in latino, è la prima volta che c'è un titolo non in latino e addirittura Laudato Si è un termine in lingua volgare, se vogliamo, non è neanche italiano, questa è una piccola cosa ma è anche un segno. E nel numero 87 dell'enciclica viene anche riportato il testo originale del Cantico delle Creature, che non rileggo ma che conosciamo da sempre, e ci viene a ricordare questo legame profondo della vita spirituale cristiana con il Creatore attraverso il creato, considerato da sempre il primo libro che Dio ha scritto per noi. Ma rispetto a San Francesco volevo citare un'espressione o una sua intuizione che viene in qualche modo ripresa dalla conclusione della vostra introduzione, dove dite: per quanto ci si sforzi di tenere ordinato un giardino, la terra si riserverà sempre un suo spazio, un pezzo di incontro visionario e riverente si farà strada. San Francesco diceva che era sempre opportuno, quando si faceva l'orto, lasciare una parte incolta. Perché? Perché così si manifestava la bellezza del creato, la sua perfezione. Non c'era bisogno di fare nulla, ma la si poteva soltanto ammirare. E in effetti, lavorando a questo libro, abbiamo lasciato che il libro si facesse da solo, perché noi percepivamo una sorta di urgenza. Queste persone arrivavano a sciami, noi incontravamo un ospite e poi rimaneva, intanto gli chiedevamo del tempo, perché ci sembrava assurdo appunto parlare in un ufficio di una cosa così lenta come la terra, quindi gli chiedevamo anche tra un mese, compatibilmente con i tempi della scrittura, però si prenda un'ora per stare con noi in un prato, in un bosco, in un pezzo di giardino, in un pezzo di terra, e parliamo guardandoci, entrando davvero in relazione. E poi ogni persona a fine di questa intervista, almeno una o due persone diverse da sé le tirava in ballo, mi piacerebbe che raccontasse anche quella storia. E ci siamo rese conto che ognuno di noi, se ci pensa, può scrivere un libro intero di persone che amano questa terra e che stanno su questa terra con profondo rispetto, negli ambiti più diversi, perché poi nel libro c'è il cosmologo quantistico piuttosto che lo stilista che fa alta moda, completamente cruelty free, ecologica, sostenibile, senza uccidere e sterminare neanche un baco. Per cui davvero in ogni modo in cui abitiamo questo pianeta potremmo e possiamo renderlo un posto migliore. E abbiamo lasciato che queste istanze arrivassero, non siamo più di tanto andate a cercarle. Poi possiamo leggere un pezzo di sì. E parlando di coincidenze, adesso noi siamo qui e citiamo l'enciclica, il 29 saremo a Milano e siamo state chiamate a leggere una parte dell'enciclica proprio nell'occasione di A Seminare la Buona Pianta, organizzata dalla Fondazione Feltrinelli insieme a grandi nomi come Gad Lerner e altri, e a noi è stato dato anche un piccolo contributo da leggere, e quindi siamo particolarmente onorate e felici di essere qui questa sera. Grazie. Grazie, io vi lascerei con un estratto piccolo da Rabì, poi se ci sono delle domande, non sono obbligatorie naturalmente. Rabì dice: a una giornalista venuta a intervistarmi per un'inchiesta sull'acqua ho detto: lei quindi fa un'inchiesta su se stessa, noi siamo l'acqua. Ed è proprio nel trascurare questo concetto di unità che il mondo moderno commette l'errore più grave. Dall'ovulo agli spermatozoi, dai semi al polline, ciò che permette il sorgere della vita è parte di un unico processo miracoloso. A volte una pianta non cresce come dovrebbe. Allora mi domando: ma dove ho sbagliato? Forse il tipo di seme? Forse il tempo? Oppure non ho preparato a sufficienza il suolo con il compost? Ma la verità è un'altra, ed è più semplice. Anche se sappiamo come fare, non padroneggiamo mai completamente la vita, non si può. Coltivare è una lezione dell'esistere, un'iniziazione. Chi si rapporta con la terra ne è ogni volta iniziato. Il giardino è un luogo di meditazione. Quando mi fermo un po' fra le sue piante, la vitalità della terra mi rimette nella vera cadenza dell'universo. Sento di immergermi fino alla radice dell'essere. Pervaso dal ciclo del nascere, del fiorire e dell'appassire, sperimento una piccola illuminazione. Vivo un vero atto d'amore con la terra. Lei è madre e mi nutre. Se muore, io muoio. Lei è figlia e io ne ho cura. Se si ammala, io mi ammalo. Lei, la terra, è la mia amante e io faccio l'amore con lei. In questo completo appagamento mi apro all'universo intero. PRB. Forse un'impressione che arriva da questo libro è che sia un affastellarsi di contributi non tutti coerenti tra di loro. Ed è un po' così anche, perché ognuno dice qualcosa della terra a partire, quindi anche con una certa casualità, quindi non seguendo una programmazione razionale. Ma è molto interessante questo, perché questo testo è nato come in qualche modo anche grazie a delle casualità, che forse sono, come dire, potrebbe essere un punto debole, ma in realtà è il punto forte di questo libro. Sì, noi quando si è trattato di mettere in ordine i contributi, abbiamo ragionato a lungo con la casa editrice e tra di noi, e poi alla fine ci siamo dette sì, all'interno c'è un filo che unisce tutti i racconti, ma quello che ci premeva era che fosse l'apertura di Rabì, perché da lui tutto era cominciato e la sua visione in qualche modo è stata quel filo conduttore che ha mosso noi e il nostro lavoro. E poi volevamo finire con un'alta Jadod, di cui vi ho parlato prima, che conclude il suo intervento dicendo: sono ottimista? Sì. Noi volevamo fermamente che la chiusura fosse questa, perché troppo spesso quando accendiamo la televisione è una visione catastrofica, dove la cosa migliore da fare è sopprimersi subito, perché tanto davanti può soltanto esserci un baratro peggiore. In realtà non è così, cioè c'è tanta gente che sta facendo tantissimo e questa gente non è alla ribalta dei media, ma solo per questo non vuol dire che non esiste. Quindi ci siamo proprio imposte di cominciare a guardare il bicchiere mezzo pieno e guardare le cose che ci sono al posto di tutte quelle che ancora mancano, e quindi più i casi virtuosi rispetto ai casi, insomma, biasimevoli, ecco. Quindi questo è l'unico ordine che abbiamo davvero voluto mantenere, che ci sembrava importante lasciare. Mi piace così dire, come tra le suggestioni che credo rimangano da questa serata, e ricordarci, come accennavo prima, che il primo libro scritto per noi è quello del creato, diciamo pure della terra, per partire da questo che è uno degli elementi del creato. E una delle esperienze che abbiamo fatto un po' molto spesso nelle nostre parrocchie, che ancora sopravvivono, è quella dei cosiddetti campi estivi. Sapete che esistono i campi estivi che portano i bambini in montagna in una stagione non turistica. È una delle piccole esperienze che si vivono ancora nei nostri oratori, credo tra le più importanti in assoluto, perché permettono ai ragazzi di vivere per qualche giorno, con alcune regole che ti dicono: la protesi la lasci in camera quasi tutto il giorno, se non a tavola. Che a tavola sarebbe sbagliato, però è un orario pratico per avere qualche telefonata, e si sta a contatto con la natura. Dopo un po' di ore che sono lì, senza la tecnologia, però respirano un ambiente diverso, credo che siano delle cose più educative, come poi pregare all'aperto, giocare all'aperto, vivere, mangiare all'aperto. Sono cose spesso lontane dalla nostra esperienza, incredibile, ma succede anche questo. Che esperienze elementari dell'essere umano non si fanno più. È una cosa che sembra banale, ma non possiamo non ripartire dalle cose essenziali, come quella dell'esperienza del rapporto con la terra, con la natura. Citavo l'esperienza dei campi scuola, ma è incredibile, perché dobbiamo costruire, inventare delle opportunità per la cosa più naturale del mondo, che è il contatto con la terra. Allora, per noi questa sera forse è stato quelle domande: che rapporto ho con la terra, come la sto vivendo? Le suggestioni di questa sera delle curatrici, che ringrazio ancora, sono sicuramente state interessanti, stimolanti, come anche lo sarà il testo. All'ingresso dello spazio del museo, e approfitto di ringraziare intanto Stefano Zecchino, che ci ha messo a disposizione questo spazio così bello come hanno detto anche loro. C'è Maurizio del Pellicano, che ringrazio, che ha procurato alcune copie di questo testo, che è anche in vendita per chi lo desidera e nella buona opportunità, che può anche essere una buona idea regalo, secondo me. Adesso faccio un po' il commerciale, ma visto che non sappiamo mai cosa regalare, il cartaceo ha ancora un suo senso, ha un suo fascino, e quindi magari uno può anche dire: lo tengo per una prima occasione in cui, oppure vi sta venendo in mente in questi minuti qualcuno a cui potreste anche fare un bel omaggio per un compleanno o per Natale, tanto il libro non scade ed è appena pubblicato, e quindi lo dico scherzando, ma lo dico anche seriamente, perché in realtà fare un bel regalo a qualcuno è anche una cosa bella. Lascio allora ancora una piccola parola conclusiva. Secondo me Carola in qualche modo l'hai detta, ma se vuoi ancora dire qualcosa, o anche Luciana. No, io vi ringrazio Carlo per questa occasione, noi ci conosciamo in tutt'altro ambito, è stato bello esserci, ecco, anche scoprire altri aspetti della vita che si condivide. Sì, è stato molto interessante, perché per noi di fatto, anche arrivando da altri approdi, l'approccio spirituale è davvero importante. Senza la parte spirituale la terra è davvero troppo pesante, quindi non credo come Luciana, non credo che esista una cosa senza l'altra, e questo per me è il motore di esistenza. Grazie per il vostro tempo, se avete piacere ci sono anche poche copie del DVD, le abbiamo portate così perché a volte ce le chiedono, e buona serata.